A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buongiorno, primo maggio. È vero che, secondo un'antica gag, che tra l'altro di nobilissime origini, fare giornalista è sempre meglio che lavorare, ma insomma, essendo comunque la festa dei lavoratori, facciamo così. Siamo regolarmente presenti in onda, questo programma è stato registrato nel tardo pomeriggio di ieri e dunque, nonostante la presenza del nostro ministro degli esteri, possiamo spaziare su tutto il panorama europeo, ad eccezione di Manchester City, Manchester United. Questo per ragioni tecniche dovute alla programmazione e anche all'organico di Radio 24. Buongiorno dunque a Fabio Tavelli. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Senti, indipendentemente da questo big match inglese, su cui poi torneremo evidentemente a partire nei prossimi giorni, e non mancheranno le occasioni, perché poi molto si è deciso ieri sera, mettiamola così, ma molto rimane ancora in piedi, soprattutto per quanto riguarda il City, gli argomenti certamente non mancano. Io comincerei, se posso, da questa la cosa che mi ha colpito di più in questo fine settimana, se parliamo di risultati, è il crollo, che chiamerei così proprio, che è il crollo del Paris Saint-Germain, perché a questo punto il cammino verso il titolo della squadra di Ancelotti è pesantemente compromesso. Se pensiamo che quando Ancelotti è arrivato con grandi fanfare, con grandi speranze di miglioramento di gioco, il Paris Saint-Germain era in testa, adesso ha 5 punti da Montpellier, beh insomma... Guarda, mancano 4 giornate, la Ligue 1 è pesantemente compromessa e io credo che ci potrebbero essere anche delle novità molto più grosse che non la non vincita di un titolo. Il Paris Saint-Germain continua a deludere, soprattutto non è migliorato granché. È chiaro che quando un allenatore arriva è molto difficile che trovi immediatamente la sintesi giusta e possa migliorare una squadra, a maggior ragione quando la squadra non aveva così bisogno di migliorare, perché con Boré, certo, che certamente non è Rinus Michels, ma comunque aveva fatto un buon lavoro, aveva lasciato la squadra al primo posto in classifica. Questo già di per sé poteva anche suggerire un po' di prudenza, che evidentemente sia la dirigenza che Carlo Ancelotti hanno considerato non essere un problema fondamentale. La verità è che tutto il lavoro che si pensava Ancelotti dovesse fare in questi mesi fosse preparatorio, cioè dando per scontato che una squadra prima in classifica nella quale innesti un allenatore della bravura di Carlo Ancelotti vincerà certamente il titolo, cominciamo già a pensare a come rinforzarci, certo, per la prossima Champions League, per aprire un ciclo e tutto il resto. Questo di fatto ha un po' distratto l'ambiente, ha gasato tantissimo gli avversari e io credo che una delle chiavi sia proprio questa. Oggi giocare contro il Paris Saint-Germain fa sì che, e già il Paris Saint-Germain non nutre proprio grandissima simpatia al di fuori della capitale francese, già gli avversari giocano 200% contro il PSG, a maggior ragione portare via un titolo, cioè non farglielo vincere, dopo un'operazione del genere io credo che abbia gasato ulteriormente, e non si spiegano altrimenti certe partite nelle quali anche avversari sostanzialmente tranquilli hanno reso la vita difficile se non impossibile alla squadra di Ancelotti, che ha certamente delle responsabilità, così come le ha Leonardo certamente, così come le ha in generale una società che da un lato non è riuscita a proteggere da tutti questi spifferi che hanno riguardato l'allenatore e il principale dirigente, ma soprattutto ha anche lasciato in maniera molto Rafa Benitez andare a vedere la partita contro il Lille. Ora io credo che gli sceicchi abbiano bisogno di acclimatarsi un po' meglio a livello di campionato europeo, perché altrimenti queste cose ti destabilizzano e poi i giocatori le annusano, e quando le annusano i giocatori poi i guai sono dietro l'angolo. A proposito di giocatori che annusano e di spiegazioni psicologiche, io prenderei questo caso per fare un'altra riflessione. Tu ci hai messo per l'appunto una componente psicologica in questa spiegazione, io ne aggiungerei un'altra, che è questa: avendo oltretutto parlato insomma, con Carlo Ancelotti poco prima che assumesse questo incarico, quando era nell'aria ma non era ancora sicuro, e avendoci parlato un po' a guardia abbassata, io ho ricavato la sensazione che per Carletto questa non fosse una cosa in cui lui credeva molto, cioè non fosse un'avventura di cui era convintissimo, cioè lui stava bene in Inghilterra, sognava un altro incarico in Inghilterra, aveva qualche tentazione semmai di ritorno italiano, Parigi, pur essendo Parigi e continuando a valer bene una messa, insomma, dava l'idea di non essere proprio in cima ai suoi desideri. Io credo che anche queste cose vengano percepite nell'ambiente e credo anche che nel calcio di oggi, se tu per primo non sei motivato al 110%, alla lunga questa roba salti fuori. A un certo punto ho avuto la sensazione anch'io che Ancelotti stesse aspettando altro. Non credo dall'Italia, nel senso che lui è stato indicato da molti come il prossimo allenatore della Roma, ma eravamo in un periodo, ed era un periodo di qualche mese fa, nel quale la posizione di Luis Enrique sembrava veramente solidissima. E credo anche che poi il mercato italiano per Ancelotti non sia così ampio, perché comunque ha già allenato due grandi squadre, certo. In un'altra non ci può andare perché... chiaramente sto parlando dell'Inter, e quindi diciamo che ne restano poche. In Inghilterra lui seriamente stava aspettando la chiamata dell'Arsenal, tutti pensavamo a quel punto della stagione che il ciclo di Wenger fosse finito, e magari finirà, ma è evidente che, come accadde a Marcello Lippi prima e come è accaduto anche ad altri allenatori, la distanza, la lontananza dalla panchina, la lontananza da tutta quella serie di riti quotidiani, Carlo era un bravissimo opinionista da noi a Sky, evidentemente è stato un richiamo molto forte. Credo che abbia pesato anche l'amicizia con Leonardo e tutta una serie di condivisioni, cioè sicuro, il fatto di sicuro, che Leonardo certo. Era l'uomo forte della dirigenza, e quindi si è anche sentito protetto in tutto questo, lo abbiano convinto a fare il passo. Credo che comunque tu abbia ragione, nel senso che non il Paris Saint-Germain comunque non era una prima scelta, come non era una prima scelta di altri giocatori che poi o sono andati o in realtà poi il trasferimento è sfumato all'ultimo momento. Diciamo che il Paris Saint-Germain è quello che era due o tre anni fa il Manchester City, con una differenza però fondamentale: il Manchester City comunque gioca in Premier League, invece il Paris Saint-Germain gioca in Ligue 1, ed è un campionato che è evidentemente meno eccitante e anche meno popolare e meno conosciuto all'estero. Fabio, facciamo un altro collegamento. Tu hai parlato abbiamo parlato insieme di convinzione sino in fondo, cioè della certezza di credere davvero nel calcio di oggi, forse nel lavoro di oggi. Devi essere certo al 100% e forse di più di quello che fai quando operi ad un livello così alto. E allora, se uno non ci credeva più, o comunque non ci credeva più in quel momento, aveva bisogno di ricaricare le pile, quest'uno si chiama certamente Pep Guardiola. Io credo che per etichettare questo allenatore, sia per la qualità di gioco che per la qualità della persona, che secondo me viene forse prima ancora nel panorama e nei paragoni, si possa usare la parola biodiversità. Non so se lo condividi. Sì, condivido molto. Io ho ascoltato le parole di Carlo Mazzone qualche giorno fa e quando sento mi permetto di definirlo un vecchio saggio, parlare così di una persona che ha 40 anni di meno, 30 anni di meno, tendo a fidarmi del suo giudizio, e quindi credo davvero che Guardiola sia questo genere di persona, che può anche non piacere, intendiamoci, perché poi molti lo hanno paragonato a Mourinho anche dal punto di vista caratteriale, e io non ho niente da eccepire. Chi preferisce Mourinho, certo, non deve essere sempre una gara. Ma poi se non ha querelato lui, non si vede perché dovremmo farlo noi. Infatti la querela qui è di parte, in questo caso va bene. Certo. Noi siamo solo dei fieri sostenitori di Guardiola, almeno io e te. Ma per quanto riguarda la decisione, io ho trovato veramente sgradevole anche qualche corsivo sui giornali italiani, nei quali si è citato ancora una volta il paragone, di fatto latente ma comunque poi scritto, con quello che guadagni. C'è molto peggio che nella vita che allenare il Barcellona, cioè con questa solito psicologia di un tanto al chilo, o un poco al chilo verrebbe da dire, poco. Di dire come poco, molto poco, come può essere stressato uno che allena il Barcellona. Io credo che uno che allena il Barcellona mi stupirebbe se non fosse stressato. Credo che già la figura di Guardiola sia stata analizzata in maniera troppo superficiale da chi pensa che un uomo possa rinunciare così a cuor leggero a tutta quella gloria che gli deriva dal fatto di allenare la squadra che, non dico unanimemente, ma è considerata da quasi tutti la squadra più forte del mondo e che ha creato un sistema di gioco unico e probabilmente irripetibile. La mia sensazione è che Guardiola abbia fatto bene, mi ha ricordato molto quello che fece Phil Jackson dopo aver vinto i titoli con gli Chicago Bulls di Michael Jordan, o di aver vinto i titoli NBA la prima volta con i Lakers di Kobe Bryant e di Shaquille O'Neal. Prese la moto e andò a farsi un giro lunghissimo. Magnifico. Nella nelle grandi praterie americane. Poi però è tornato e ha ricominciato a vincere, ed è quello che io auguro a Guardiola. Cioè, c'è grande nobiltà anche nella rinuncia. Dobbiamo ogni tanto abituarci che anche una non vittoria o una non partecipazione può essere un successo, e andarsene quando non sono gli altri che ti mandano via, io credo che sia quasi paragonabile a una grande vittoria. Condivido. Senti, abbiamo due storie ancora. Una ce la racconti tu alla fine, perché è una storia che io ho soltanto sentito da te abbozzare, ma mi sembra molto, molto divertente e molto istruttiva. La storia precedente è altrettanto istruttiva, perché chiama in causa il fenomeno ultra anche in Germania. Cioè, stiamo parlando del Bayern di Monaco, stiamo parlando di una società modello, di una società che è andata in finale in Coppa Campioni, una società, una squadra che probabilmente o comunque la vincerà, o ha molte, molte buone ragioni per crederlo. Il fenomeno ultra, che noi crediamo ormai, temiamo con riservato ai nostri confini, invece il fenomeno ultra esiste anche in Germania. Per esempio gli ultra del Bayern, che certamente non si comportano come quelli del Genoa, giusto per fare un esempio recente, ma che la loro presenza la fanno sentire. Quando lo scorso anno il Bayern si buttò su Neuer, il portierone anche della nazionale, per comprarlo, sapendo che Neuer era era cresciuto da ragazzino anche ultra nello Schalke 04, squadra storicamente rivale del Bayern, si ribellarono. Ci fu addirittura una specie di decalogo, se non ho letto male, per cui guai se si fosse presentato sotto la loro curva, sotto la curva sud dell'Allianz Arena. Voglio vedere mo come si mettono dopo quei due rigori che gli ha parato a Madrid, soprattutto se dovessero vincere la Coppa. Ma guarda, è francamente anche complicato non scendere a livello, non dico di insulti, ma davvero di accetta forte nei confronti di questa gentaglia. No, ma è solo per consolarci, che non li abbiamo solo noi, ecco. Ma sai che li avessero anche gli altri, si sapeva che usassero queste cose anche, però ogni volta l'asticella della stupidità viene sempre più alzata. Questi non soltanto lo accolsero a fischi, sputi e quant'altro nel ritiro in Trentino, ma gli mandarono anche non solo un decalogo di comportamentale, ma scrissero anche uno striscione nel quale dicevano: non ci importa quanti palloni parerai, quello che noi non vogliamo è vedere te con la nostra maglia. Certo. E quindi evidentemente, già per risponderti, non gli importa, non gli è importato quello che Neuer ha fatto a Madrid. Forse loro avrebbero preferito perdere, ma con un ultra del Bayern di Monaco in porta, mi piacerebbe chiedergliela questa cosa. Il confine, ormai il limite alla stupidità, è stato abbondantemente varcato e ormai siamo nello spazio siderale. Quello che io penso è che tante volte, e mi viene in mente la faccia di Totti, non c'entra nulla con il discorso di Neuer, ma mi viene in mente l'espressione di Francesco Totti l'altra sera, quando è andato a farsi processare lui, Francesco Totti, davanti a questo pubblico che berciava qualsiasi cosa, incomprensibile peraltro, perché parlavano tutti, urlavano tutti. Tante volte dovremmo pensare a quanto è difficile, per carità, fare il tifoso che va in giro, prende il freddo, paga dei soldi, ma anche quanto è difficile fare il calciatore, perché se il livello di ragionamento è questo, francamente. Se il livello dei tuoi azionisti di riferimento è questo, no, direbbe sempre il celebre Bruno Vespa, non c'è da essere molto allegri. Tu hai detto: mi piacerebbe chiederglielo. Ora so che non lo farai, mi auguro, ma sono certo che non lo farai mai. Parlavi degli ultra del Bayern di Monaco, eppure mi risulta che tra non molto potresti averne l'opportunità. Allora facciamo questo breve intervallo per sentire come va il traffico del primo maggio, e poi ci racconti questa storia deliziosa. A tempo di sport. Torniamo in onda con Fabio Tavelli, c'è ancora un argomento molto divertente da sfogliare con lui. Poi ci sarà come sempre spazio per i vostri interventi in diretta, per le vostre mail, per aggiornamenti di attualità, a cominciare dalle reazioni alle 4 giornate di squalifica toccate giustamente, inevitabilmente, al portiere della Lazio Marchetti. Fabio, ho l'impressione, mi risulta che presto tu e un gruppo di altre persone, che adesso più o meno ci definirai, avete in testa un raid di quelli con la R maiuscola. Sì, abbiamo in testa una cosa che potrebbe anche non riuscire. Siamo molto consci del fatto che le probabilità di riuscita di questa avventura non siano altissime. bellissime. Partiremo il 14 mattina da San Marino con 5 equipaggi composti da 2 persone a bordo di Fiat 500. Sono le vecchie 500. Ah, le vecchie. Quella che ha non ha la quinta, che devi fare la doppietta per scalare. Fantastico. Quella sulla quale io nell'89 presi la patente. Quindi è proprio un ricordo storico anche per me. È un gruppo di amici di San Marino che mi ha proposto questa follia e alla quale io mi sono buttato. Dici no alla follia, non so io. Assolutamente. Assolutamente. Allora, noi il 14 mattina partiamo. L'obiettivo è questo: visto che la finale sarà tra Chelsea e Bayern di Monaco, noi tenteremo di toccare entrambe le città. Cioè, partiremo il 14 e in una settimana dovremo riuscire ad arrivare a Londra, girare intorno a Stamford Bridge, la casa del Chelsea, prendere la rincorsa da lì e scendere fino a Monaco di Baviera. Volendo presentarci intorno alle 19:30-20 di sabato 19 per essere lì ad assistere alla finale di Champions League. Ci sarà anche un camper che ci seguirà con 2 meccanici che saranno pronti ad aiutarci nel caso in cui le nostre vetture avessero, nel caso abbastanza certo che le vetture avessero delle defaillance. È un'avventura, certo, che noi naturalmente documenteremo su Sky Sport 24, perché attraverso le nuove tecnologie saremo di fatto costantemente live. Ed è un'avventura nella quale noi crediamo moltissimo, ed è una vecchia zingarata, insomma, non mi spiace citare Tognazzi in questo, che è un maestro, è stato un maestro, però è proprio bello, è bello l'avventura, è bello il tentativo di compiere un percorso a bordo di una vettura antica con la nuova tecnologia che è il satellite, che sono i tablet, che sono gli iPhone, ed è la possibilità anche attraverso i social network, quindi Twitter e Facebook, di essere costantemente insieme a chi sta a casa e provare a fare vivere a chi sta a casa anche questa avventura, che è un'avventura nostra. Siamo 12 persone, 10 sulle 500 e 2 sui camper, che tentano di fare questa cosa e fondamentalmente di divertirsi. Senti, dammi la tabella di marcia, la tabella di viaggio presunta, no? Come si fa per le tappe dei grandi giri. Molto, cioè, presunta, caro Gigi, perché noi non abbiamo prenotato alberghi, perché non sappiamo bene dove, certo, ci condurranno le 500. L'idea è questa: il 14 partiamo da San Marino con una grande cerimonia con i capi di Stato. San Marino tra l'altro ha 2 capi di Stato, quindi insomma è una roba seria. Scendiamo dal Monte Titano prendendo la rincorsa, quella è fondamentale. Ci buttiamo in autostrada, arriviamo a Milano dove presumiamo di essere intorno alle 14, quindi avremo una bella passerella agli studi di Sky con il telegiornale in diretta e tutto questo, e poi riprenderemo la marcia con una possibilità che ancora non ci hanno confermato: potremo passare da Torino per fare un'intervista a bordo della Fiat 500 con un personaggio importante della Juventus. Ma diciamo che comunque lasceremo l'Italia nel tardo pomeriggio, diciamo alle ultime luci del giorno, per andare o verso la Francia se passeremo da Torino, oppure taglieremo in Svizzera e andremo su verso Lucerna. Ci fermeremo quando troveremo un albergo confortevole e vorremmo far riposare queste eroiche 500. Sì. Il giorno dopo ancora presumiamo di avere finito di passare dalla Francia. Dico soprattutto a te, Gigi, che non passeremo da Parigi, ma abbiamo deciso che passeremo da Reims. Grandi, perché due bollicine possono non guastare in un viaggio del genere. Per noi e per le autovetture, ovviamente. Certo, mi farò sentire per indirizzi e segnalazioni. Certo. Bene. No, ma io guarda che ti propongo adesso, senza grande pudore, che se vogliamo anche sentirci durante questo viaggio su Radio 24, anche un minuto al giorno, a me farà molto piacere. E poi supereremo la Manica e andremo verso Londra. Tenteremo di tornare giù intorno a giovedì pomeriggio per avere poi tutto venerdì e gran parte del sabato per entrare poi in Germania e arrivare a Monaco di Baviera. Biglietti per l'Allianz Arena ci sono? Tutto fatto. Allora, credo che ritorno su San Marino? No, guarda, no. Io in realtà per non abusare della pazienza della famiglia, la mia famiglia, certo, la domenica pomeriggio ho un volo prenotato da Monaco di Baviera per tornare a Malpensa. L'alternativa, sì, dato che stiamo parlando del giorno 20-21 circa, potrebbe essere che tutti voi foste sin da ora invitati alla mostra di Rocco a Trieste, perché è sulla rotta, scendendo da Monaco, l'allargate appena appena, soprattutto chi torna a San Marino. E questa potrebbe essere una rimpatriata. Veda lei di perfezionare, non mancherà il tempo. Terremo informati gli ascoltatori, che mi sembra stiano già reagendo. Qualcuno ha proposto insomma anche una chiamata al 118 e sbaglia completamente. Opportuna chiamata. No. Invece queste sono le cose che divertono. Grazie, Fabio. Grazie a te, Gigi, un abbraccio a tutti. Avete capito che grazie ai ministri degli esteri ci trasciniamo dietro qua. Questo indubbiamente è una storia molto divertente che andrà raccontata anche in dettaglio. Farei un passo indietro perché vi dicevo degli echi della domenica. Perché? Ma perché insomma, oggi si torna a giocare, e cioè nel pomeriggio alle 18 c'è già in programma Chievo-Roma, stasera si gioca Napoli-Palermo, domani c'è il resto della Serie A con questo orario di Genoa-Cagliari che è stato, ve l'ho detto ieri, no? rispostato alla sera dopo l'anticipo pomeridiano a Marassi, rispostato alla sera ma spostato anche di sede, cioè a porte chiuse e a Brescia. E quindi ne approfittavo per fare un passo indietro per qualche piccolo capitolo che ieri abbiamo un po' trascurato. Per esempio il record di punti dell'Atalanta. L'Atalanta non ha mai fatto così tanti punti in Serie A. Prendo i numeri di Franco Piantanida e vedo che questi 52 punti, che ovviamente tengono conto dei 6 di penalizzazione, perché in realtà si scrive 46 e si legge 52, il record precedente era di 50 punti del 2006-2007, sempre con Colantuono in panchina. E allora io credo che proprio Colantuono sia l'artefice principale di questa magnifica cavalcata atalantina. Si torna a dormire. Beh sì, è stato un campionato, guarda, straordinario. Ora starò a raccontare, non basta tutta la puntata per quello che abbiamo dovuto passare, eccetera, eccetera, eccetera. Però i ragazzi, veramente, guarda, nessuno se lo poteva aspettare. Abbiamo fatto il record di punti in Serie A per l'Atalanta. Veramente stavamo lì a lottare addirittura. So io solo a sentire la parola e viene la pelle d'oca, poteva lottare per la Champions League, per cui è stata veramente una stagione trionfale. La dedichiamo al nostro popolo che quest'anno ha sofferto veramente le pene dell'inferno. Mi riferisco ai tifosi che sono passati da una festa per la promozione in A a tutto il cataclisma che si è scatenato dopo, e gli abbiamo regalato una bella soddisfazione. Grandi complimenti all'Atalanta, li stramerita davvero, perché dopo, ha detto bene Colantuono, dopo quello che si era abbattuto sull'Atalanta nella scorsa estate e poi nel primo autunno, e non parlo soltanto di punti di penalizzazione, parlo di atmosfera, parlo di tutte le negatività che quel provvedimento si tirava dietro. Quella dell'Atalanta è un'impresa vera. Segnalo i tecnici, una mail di Roberto Virgini che da Osimo dice, ci informa che da venerdì la frequenza standard 88.00 su cui ascolta normalmente Radio 24 non dà segnali, e quindi mi raccomando, perché sennò il povero Roberto continua a inondarci di mail. Un paio di vocette. Una, la vigilia immediata di stasera, di chi? Beh, proprio di uno dei personaggi che attualmente più è in difficoltà, indubbiamente, ambientale, ma direi anche in parte anche tecnica, e cioè Luis Enrique. Ah, rimpianti. In questo momento fare dei rimpianti fra di noi non serve a nulla. Certo che abbiamo disapprovechato, sprecato tante opportunità durante la stagione, pure questa della Fiorentina tre giorni fa o cinque giorni fa, non mi ricordo, è successo qualche volta in più. È un peccato quando uno fa un pensiero e vede che ancora, essendo un po' più forti in queste partite, saremmo stati lì. Ma alla fine, fino a questa giornata, ognuno merita quello che ha riuscito a ottenere. E se 9 punti, prima prendiamo questi 3 e dopo parleremo dell'altri 6. Questi 3 sono per l'appunto quelli in palio alle 18 a Verona sul campo del Chievo. Ricordo che l'altro anticipo di oggi invece è quello serale tra Napoli e Palermo, e quello peserà certamente di più, perché mentre la Roma ha qualche chance teorica di Europa League, il Napoli ne ha tante invece per la Champions League, sia pure passando dai preliminari. Ancora un contributo vocale, abbiamo parlato di lotta per la Champions, ci è rientrata a pieno titolo l'Inter, e allora sentiamo Zarate. Credo che lo vediamo tutti, che il mister ci ha dato un po' di spinta e stanno arrivando i risultati. Speriamo al terzo posto. speriamo, mancano tre partite, siamo bene, stiamo giocando bene, credo che oggi abbiamo fatto una grande partita, sia il primo tempo che il secondo. Arrivata la vittoria, che era giusta, e adesso è un'altra partita difficile fuori casa che dobbiamo prendere tre punti. Ci proverà dunque seriamente l'Inter che gioca domani a Parma contro una squadra molto lanciata, ma insomma anche serena, tranquilla, perché la salvezza è alle spalle ed è stata ottenuta con questo finale particolarmente brillante della squadra di Donadoni. Intervallo, pubblicità. A tempo di sport. È il momento degli interventi dei nostri ascoltatori. Comincia Gianfranco da Udine. Buongiorno. Buongiorno, io la chiamavo solamente per così parlare un attimo di questa situazione calcio visto dagli stadi. Per esempio, ho voglia di portare mio figlio domenica a Trieste a vedere la partita della Juve per una festa, per portarlo a uno stadio perlomeno quanto penso tranquillo per quel che poteva essere l'ordine pubblico. E mi ritrovo che la richiesta dei biglietti parte da 150 euro per un biglietto di gradinata. Buono. Allora direi che questo è uno dei segnali principali per dire non venite allo stadio, guardatevi le partite in televisione, perché se io devo pensare di venire io con mio figlio a spendere 300 euro per vedere una partita di calcio, ben venga che a Trieste continueranno a mettere, per la stragrande maggioranza delle partite, i finti spettatori che guardano i cartoni. Sì. Volevo segnalare questo perché sembra che 150 euro per vedere una partita di calcio da una gradinata, insomma, mi sembra veramente che siamo arrivati al delirio per tenerci lontani dagli stadi, al di là di stadi fatti male e quant'altro. No, quello di Trieste è anche fatto bene, ma è stato ben rimodernato, perché è un bello stadio, è uno dei pochi che conosco attualizzati, però 150 euro sono davvero una follia. Lei ha completamente, almeno io condivido del tutto quello che lei dice. Poi è ovvio che domenica non avranno bisogno dei cartonati, no, brevettati dall'ex presidente Fantinel, perché domenica per Cagliari Juve avessero una capienza di non so quante persone, probabilmente farebbero ugualmente tutto esaurito. Però è anche vero che 150 euro. Ho l'impressione che il presidente del Cagliari Cellino, insomma, come dire, debba rifarsi, no, di questa trasferta forzata. Poi sappiamo della sua vicenda col comune di Cagliari e con la regione, non si entra nel merito, ci saranno delle ragioni e dei torti dall'una e dall'altra parte, ma in questo momento oltretutto economico-sociale che stiamo attraversando, 150 euro con una gradinata, io condivido che sembrino che hanno tutta l'aria davvero di una pazzia. Poi ricordatevi che avendo fatto ricerche ieri dopo la storia del fischio che ogni tanto nel passato ha causato dei rigori, dei gol strani eccetera, vi leggo un paio di episodi accaduti davvero in un passato insomma abbastanza remoto, ma non poi così tanto, che forse hanno inciso senza forse hanno inciso sul risultato più di quanto non sia accaduto con il fischio dell'Udinese dell'altra sera a Udine. Tocca a Roberto da Padova, provincia di Padova. Buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica, Roberto. Io volevo farle due considerazioni. Sì. Io vorrei tanto che non succedesse, chiunque vinca Milan Juve il campionato, sentire la solita frase: abbiamo vinto contro tutto e contro tutti, perché sembra sempre questo vittimismo, che siano sempre vittime poi fatto da società come Juve, Milan. Fanno un po' ridere, sì. Effettivamente sì. È proprio una cosa ridicola. E poi è proprio una frase di una retorica assoluta, sì. Secondo me. D'accordo. E poi volevo anche dirle che ogni squadra sembra che sia stata derubata di 7-8 punti a detta dei loro presidenti. Allora io mi chiedo, se effettivamente il campionato italiano invece di, non so, 1200 punti, quanto saranno in totale, ne darebbe in realtà 1800? O forse la seconda ipotesi è che tutti questi punti se ne rubino Chievo, Novara, Lecce, sì, che mi sembra sì, che sono sì, le squadre sì, che si lamentano molto meno, perché saranno loro che li rubano, non so. Perché... Roberto, è difficile far di conto, sa, nei punti. E Io trovo che più esilaranti ancora, perché vede, i dirigenti presunti tali, in fondo cosa fanno? Questo è la loro piccola forma di, non dico terrorismo, ma di pressione, insomma, no? Nei confronti della piazza, nei confronti della classe arbitrale, insomma, a seconda dei momenti. Ma quelle che io trovo davvero comiche sono le tabelle che certi giornali pubblicano su questi episodi, dando assolutamente per acclarato che episodi di cui si è discusso a lungo e troppo a lungo, no? Già in partenza troppo a lungo, ma che comunque erano episodi controversi, che poi bisognava vedere se davvero erano così, se non, insomma, tutte queste discussioni che non hanno senso, a un certo punto è come se passassero in giudicato, finiscono sulle colonne di un quotidiano, e spesso sono quotidiani magari anche di provincia, diventano a titolo definitivo, e a quel punto, come dice esattamente lei, una squadra è stata derubata di 10, all'altra le mancano l'appello 12, noi con quei 5 punti ci saremmo salvati, eccetera, eccetera, eccetera. E alla fine, lei ha detto molto bene, il totale dei punti in palio in un campionato si dilata a dismisura. Perché? Ma perché tutti accusano sempre ricevuta dei torti o presunti torti subiti. Vigliacco se c'è uno che ti fa una ricevuta anche non fiscale per dire: ostia, quei 2 punti lì, quei 3 punti lì, quel punto là sinceramente non lo meritavamo, e stavolta ci è stato attribuito anche se non era giusto, no? Solo i torti vengono ricordati e messi a verbale e a bilancio, tutto quello che invece non fa parte dei torti, no. Questo le dice, no, in che credibilità abbia, perlomeno da un punto di vista dialettico, ma non solo, il nostro calcio attuale. Vogliamo arrivare a qualche episodio divertente. Allora, 1987-88, Salvatore Nobile, in arrivo dal Lecce, giocò solo 19 partite nell'Inter per una distorsione, per la maledizione che c'era all'epoca in casa Inter del terzino sinistro. Allora, il 27 marzo 88 Inter-Roma, ce l'aveva già segnalato ieri questo episodio, tra l'altro non un ascoltatore solo, qualcuno, Nobile nella sua area udì un fischio che veniva dalla tribuna, ed era un tentativo di disturbo antenato del laser, quel laser verde che abbiamo imparato tristemente a conoscere, e prese il pallone con le mani. L'arbitro Agnolin, con grande imbarazzo visibile, fischiò il rigore. Qualcuno se la ricorda, però l'Inter vinceva 3-0, la partita finì 4-2, e così insomma, questa vicenda occupò un posto tutto sommato marginale, no? In questa galleria della curiosità o degli orrori, se vogliamo. Stagione 71-72, torniamo dunque indietro di 40 anni, il Cagliari sta vincendo 2-1 a Catanzaro, e negli sviluppi di un'azione nel finale un difensore del Cagliari toglie il pallone a un attaccante del Catanzaro che finisce a terra in area, proprio mentre il pallone arriva a Nicolai, che si trova fuori area. In quel momento arriva il fischio dagli spalti, Nicolai pensa che il fischio sia dell'arbitro e, stizzito, calcia il pallone alla propria porta. Tra l'altro Nicolai nella porta del Cagliari, cioè nella sua, era abbastanza abituato a calciare e ogni tanto a far gol, è uno dei calciatori passati alla storia, no? con la fama di specialista in autoreti. Bene, a pochi passi dalla porta c'era Bruniera, grande mezzala del Cagliari, che intercettò il pallone con un tuffo all'Albertosi, cioè lo parò, e Albertosi era dalla parte opposta della porta, e quindi l'arbitro Lobello fischiò il rigore e la partita finì 2-2. Quindi insomma, può succedere di peggio, come vedete, rispetto a quanto è accaduto a Udine. Qualche curiosità ricavata ancora dalla domenica. Beh, le grottaglie ha stabilito un primato personale, evidentemente, ma un primato tutt'altro che insignificante. Con 5 gol ha stabilito il suo record personale di gol in una stagione. Ne ha segnati 4 con il Chievo nel 2002-2003, ma stiamo parlando di un giocatore che allora era in ascesa e che non a caso da lì a poco sarebbe finito alla Juventus con qualche giusta ambizione di nazionale. Allora, adesso è diventato l'uomo, uno degli uomini gol del Catania, e nella grande stagione catanese le grottaglie certamente occupa un posto di primo piano. Vi ricordo ancora, prima di chiudere questa parte. Vi ricordo ancora le partite in programma, che sono Chievo-Roma oggi alle 18, Napoli-Palermo sempre oggi alle 20.45 e poi domani Catania-Bologna, Cesena-Udinese, Fiorentina-Novara, Genoa-Cagliari, e stiamo parlando di 20.45 sul neutro di Brescia ma a porte chiuse, Juventus-Lecce, Lazio-Siena, Milan-Atalanta e Parma-Inter. C'erano ascoltatori che avevano chiesto di intervenire, vediamo se siamo riusciti a stabilire il collegamento. In ogni caso, la motivazione delle quattro giornate di squalifica al portiere Marchetti, portiere della Lazio, sono per l'appunto, ma tutti l'abbiamo visto in diretta televisiva, per avere spintonato l'arbitro Bergonzi durante il finale di Udinese-Lazio sfociato in rissa, lo ha deciso il giudice sportivo. Per quella stessa rissa, tre giornate di squalifica ad André Diaz, cioè il difensore, per l'atteggiamento, anche qua virgolette, atteggiamento aggressivo verso il quarto uomo durante il finale della partita Udinese-Lazio. Club biancoceleste, oltre alle 4 più 3, 7 giornate di squalifica, è stata combinata anche un'ammenda di 20.000 euro per la rissa finale. Più tardi vi do gli altri squalificati. Volevo sentire nel frattempo Gianni, che ha chiamato dalla provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno, grazie per la chiamata. Dica. L'ha spiegato stamattina Casarin, sì, cioè dicendo che esiste l'articolo, è vero, ma la disposizione a carattere generale dice che se l'arbitro indica di proseguire, certo, allora bisogna proseguire. Per certo, cui è un po' come il codice, insomma, ci sono gli articoli, però ci sono le disposizioni a carattere generale che bisogna rispettare. Certo, ma infatti è una questione di buon senso, cioè l'arbitro è il riferimento assoluto per il calciatore in campo. Cioè, noi siamo sempre, spesso ripetiamo, non si butta la palla fuori, perché buttare la palla fuori, eccetera, è l'arbitro che deve decidere. Beh, l'arbitro decide tutto, decide anche se il fischio che c'è stato dagli spalti, intanto sa se l'ha fatto lui, se l'ha soffiato lui sto fischietto o meno, e quindi a maggior ragione se fa un cenno di continuare. Quando c'è una situazione anomala, tu sei in campo, il primo occhio che butti è all'arbitro, non lo butti a nessun'altra parte, no? E della Lazio hanno perso i nervi senz'altro, però siccome ho sentito diverse trasmissioni dove parlano di questo benedetto articolo, ma non è così. Cioè la disposizione a carattere generale è diciamo compendia tutto. Certo. Giusto? Giusto, sì, Gianni. Auguri e grazie di avermi chiamato. Grazie a lei. Grazie a lei, Gianni. Un augurio per questa giornata del 1° maggio. Vi dicevo degli altri squalificati, che sono tutti per un turno: Esposito del Lecce, Benatia dell'Udinese, Gobbi del Parma e Santana del Cesena. Però un turno di squalifica anche a Serse Cosmi, e quindi il tecnico del Lecce, che è stato punito per aver assunto atteggiamenti intimidatori verso l'arbitro nel corso della partita con il Parma, non sarà in panchina stasera contro domani sera non sarà in panchina al Juventus Stadium, perché risulta latino e non con pronuncia inglese, non sarà in panchina allo Juventus Stadium nella partita del Lecce, che il Lecce proverà a giocare, insomma, cercando un risultato positivo contro la Juventus. La notizia curiosa che arriva, una notizia curiosa tra le tante arrivate in questi due giorni, arriva da Berlino. Pensate che la squadra che si appresta a vincere o comunque a giocarsi la finale di Coppa Campioni ha una grossa lite in corso tra due delle sue stelle, che sono Robben e Ribéry, che hanno avuto un litigio molto violento, di cui si era parlato nello scorso periodo. Leggo una notizia: la stella del Bayern Monaco, Robben, non vuole prolungare il suo contratto con il Bayern, essendo rimasto scontento del modo in cui lo stesso Bayern si è comportato dopo la lite che lo ha opposto alla compagna di squadra Ribéry. Lo scrive la Bild, precisando che il clan Robben non è affatto contento per il modo in cui la dirigenza del club ha trattato l'affare. Tutto accadde, secondo la ricostruzione, nell'intervallo della semifinale di andata a Monaco contro il Real lo scorso 17 aprile. La Bild aveva rivelato che i due giocatori del Bayern si erano affrontati in spogliatoio e Ribéry aveva messo le mani addosso al compagno, sferrandogli un pugno, prima che i due venissero separati. Invece di dar sostegno a Robben, scrive la Bild, il club ha minimizzato l'accaduto, confermato dal fatto che Ribéry aveva chiesto scusa e pagato una multa di 50.000 euro. Dunque evidentemente la cosa c'era stata, e come. A questo punto Robben, visto che il club ha deciso di metterci una pietra su, non ha più una grande intenzione di continuare con il Bayern, e staremo a vedere se questa, se questa, insomma, lite interna avrà delle conseguenze ambientali nella finale con il Chelsea. L'ultimo intervallo di oggi per sentire come va su strade e autostrade. A tempo di sport. Ultima parte dell'appuntamento di oggi, dedicato innanzitutto, come ogni giorno, al ricordo della data, curato da Nicola Filippone. Sembra ieri. Primo maggio 1956, semifinale di ritorno della prima edizione della Coppa dei Campioni. Il Milan di Puricelli ospita a San Siro il Real Madrid di Di Stefano e Gento. Dopo aver perso 4-2 all'andata, i rossoneri sono chiamati all'impresa, ma Lidolm, Nordal e Schiaffino non riescono a imprimere la svolta e nel secondo tempo passa il Real con José Ito al 65esimo. Il gol scuote la squadra di casa, che trova subito il pareggio sul rigore con Giorgio Dalmonte e riesce poi a passare in vantaggio all'86esimo di nuovo con Dalmonte e ancora sul rigore. Il 2-1 finale qualifica però il Real, che nella finale di Parigi se la vedrà con lo Stade Reims, mentre il Milan esce di scena deludendo chi era convinto potesse ribaltare il risultato, compreso l'inviato della stampa Vittorio Pozzo. Nel suo complesso, la prova del Milan, scrive l'ex commissario tecnico della Nazionale, è stata poco più che mediocre. Beh, insomma, poco più che mediocre, ma contro un Real che avrebbe vinto anche le successive coppe dei Campioni, ed era il Real di Stefano. Non c'era ancora Puskas quell'anno, ma era di Stefano, Gento, Santa Maria, di un sacco di campioni, una delle più grandi squadre di club di tutti i tempi. Vittorio Pozzo, che era stato appunto, che aveva firmato da CT i titoli mondiali del 34 e del 38 e anche quello olimpico del 36 a Berlino, era effettivamente un critico abbastanza severo ed era da inviato della stampa, insomma, di sconti ne faceva poco. Andò avanti a scrivere per il quotidiano di Torino fino a tarda età, fino quasi al 1968, anno della sua scomparsa. E a proposito di Amarcord, chiedendo scusa per un istante a un ascoltatore che è già collegato, e a proposito sempre di fischi clandestini, Livorno-Napoli, 20 gennaio 35, saltano fuori, no? questi precedenti, perché poi basta sfrucugliare un po' gli statistici e arriva di tutto. Questa, per l'appunto, risale Nicola Filippone. Due gol di Sallustro e uno dell'ala azzurra Ferrari secondo, leggo, ma la seconda rete di Attila Sallustro fu segnata nello stesso istante in cui sul campo si udiva un sibilo emesso da un fischietto. I toscani credettero che l'arbitro avesse annullato il gol, ma invece l'arbitro indicò il centro del campo, non aveva fischiato lui. Cominciò una dura contestazione del pubblico livornese, accompagnato dalle proteste dei giocatori, soprattutto dopo un terzo gol segnato poi da Ferrari il secondo. L'arbitro fu costretto a ritenere sospesa la partita, due giocatori a Livorno furono espulsi e gli spogliatoi vennero a lungo assediati dai tifosi livornesi e protetti dalla polizia. Tutto si concluse con un 2-0 a tavolino al giudice sportivo in favore del Napoli per l'applicazione dell'allora articolo 40. Era il 1935, insomma, direi che di grandi passi avanti da questo punto di vista non ne abbiamo fatti. Giacomo è in linea dalla provincia di Ravenna, buongiorno. Buongiorno dottore, volevo intervenire appunto riguardo al fischio. Secondo me quel fischio non è stato fatto da uno sprovveduto, in quanto da ex arbitro mi sembrava appunto un fischio di un fischietto particolare. Bello tempestivo, in effetti. Infatti anche per questo i giocatori sono stati tratti in inganno. Dal mio punto di vista questo pseudo tifoso, insomma, ha creato un danno d'immagine anche all'Udinese Calcio, dal mio punto di vista, perché senza dubbio la Lazio è stata nettamente danneggiata, perché i giocatori verranno senza dubbio poi squalificati. Poi volevo dire un'altra cosa riguardo alla nazionale. Secondo me due giocatori come Niccoli e Di Natale non andrebbero senza dubbio lasciati a casa, ma meriterebbero senza dubbio di qualcosa di più. Non so cosa ne pensa lei a riguardo. Io lascerei fare a Prandelli, sinceramente. Certo che Miccoli ha giocato un'altra buona stagione, Di Natale un'altra strepitosa stagione, quindi da questo punto di vista che meritino non c'è dubbio, però bisogna inquadrare il problema in scelte più ampie, considerando che ampie possono essere, ma fino a un certo punto, perché la lista poi ne viene 23, e quindi è un numero, è un gran numero, certamente, per giocare tre partite obbligate, sperando poi di giocarne altre tre, e cioè di superare quarti e semifinali e andare addirittura in finale. Ma è anche vero che, mentre una volta nel calcio, non dico di un tempo, ma nel calcio di fino a qualche anno fa, 20, di 23 giocatori, poi in un torneo di 6 partite massimo ne venivano impiegati 14-15, al massimo si arrivava a un paio di pedine in più, oggi ogni ricambio è determinante, perché la percentuale di incidenza di infortuni, il rischio di dover fare a meno di giocatori è altissimo, e quindi ogni singola scelta non può essere un premio, non dico alla carriera, ma anche semplicemente un premio alla stagione, deve essere una proiezione sull'utilizzo. Certo, ora le qualità di Miccoli, a maggior ragione di Natale, non si discutono, bisogna vedere in che condizioni fisiche sono e quali alternative invece il commissario tecnico ha preso in considerazione. La rabbia della Lazio non si è placata nel frattempo, certamente le 4 giornate inflitte a Marchetti e le 3 ad Andrea Diaz non hanno contribuito, anche se attesissime, insomma, anche se prenotate, direi, non hanno contribuito a stemperare il clima. Sentiamo il direttore sportivo del club laziale, cioè Igletare. È evidente che è un errore tecnico dell'arbitro, perché chi conosce bene il regolamento sa che in quel momento la partita va fermata. La confusione è stata per il fatto che in quei momenti sul campo sia il quarto uomo anche l'arbitro hanno detto che il gol va annullato e va rispettato il regolamento. Poi in un secondo momento hanno deciso di convalidare il gol e di finire la partita. Questo, diciamo, ha scatenato un po' la reazione dei nostri giocatori. Il tifoso, se vuole un misero autografo, e adesso vi leggo 2 o 3 mail che avevo messo da parte e che sono arrivate la scorsa settimana dopo i fatti di Genova, chiamiamoli così. Questa è arrivata da Claudio Bonetti, da Brescia, e l'ho trovata, è una sintesi interessante. Il tifoso, se vuole un misero autografo dai suoi beniamini, deve passare l'intera giornata all'ingresso del centro sportivo. Non parliamo di una foto. Lì le giornate diventano 2. E la maggior parte delle volte le ottiene soltanto dalle riserve, i big non si fermano. Il tifoso deve pagare il biglietto quando va allo stadio, adesso dico io, ci mancherebbe altro, fare chilometri a piedi per arrivarci. Il tifoso normale è quasi sempre una persona onesta. L'ultra invece, ed ecco il parallelo, è quasi sempre una persona pregiudicata. L'ultra non paga il biglietto, magari è pure spesato dalla società stessa ed è accompagnato o scortato fin sulle tribune. L'ultra ha potere, blocca le partite, parla direttamente col capitano, a volte anche col presidente in persona. L'ultra è amico dei giocatori e va a cena spesso con loro. Io purtroppo sono tifoso, fortunatamente sto guarendo dal calcio, altrimenti avrei provato a diventare un ultra. Ripeto, firmato Claudio Bonetti Brescia, la sintesi è un po', se vogliamo, insomma, un po' tirata, no? Un tantinello forzata, ma certamente gratuita non è. Giovanni Sala da Vicenza ricorda sempre in materia un episodio che accadde in un passato non ancora abbastanza recente, ma insomma non recentissimo, quello di Malgioglio, che si tolse la maglia volontariamente, il portiere della Lazio, si tolse la maglia volontariamente in un Lazio-Vicenza perché la curva lo contestò. Fu un episodio molto grave, molto brutto, che magari non stiamo nemmeno a rimbargare. Se la tolse lui, ma se la tolse per gli insulti, non furono gli ultra a fargliela levare, e ci teneva a ricordare questa differenza di comportamento. E poi niente, hanno scritto Renato Valenti, ha scritto Luca Bianchi a proposito di Nick Orbi addirittura, quindi una citazione colta di Febbre 90, ha scritto Giovanni Lencioni, ha scritto, sto sfogliando, Gian Andrea Moresi, ha scritto Maurizio Raspante, Leonardo, senza cognome, Matteo Servente, che è un ascoltatore fedele dagli Stati Uniti. Un altro episodio, in particolare citato da tifosi di Padova, di intemperanza allo stadio Ganombo di Padova, Gian Paolo Biscari, una lettera bellissima che è un per la quale un giorno o l'altro giuro che troverò spazio, anche se oggi non ci sono riuscito. Facciamo in tempo a sentire la voce di Allegri alla vigilia di questo ritorno in campo del Milan. Sì, allora il Milan, ricordo, è impegnato domani sera con l'Atalanta, mentre la Juve cercherà i suoi punti contro il Lecce. Allegri. Dal fatto che col presidente ho un ottimo rapporto da un anno e mezzo a questa parte, con Galliani vivo quotidianamente, e il fatto che ho un contratto fino al 2014, il fatto che in due anni credo che abbiamo fatto dei buoni risultati. Poi sicuramente la società è quella che decide, però io almeno sto bene, e quindi magari ho detto a qualcuno di fare il conto sulle panchine, sul numero delle panchine che potrò raggiungere nei prossimi due anni. L'anno scorso abbiamo avuto, dopo Tottenham, abbiamo avuto Bari e Palermo dove abbiamo fatto un punto in due partite. L'anno scorso le prime cinque partite avevamo fatto 8 punti, quest'anno le prime cinque partite abbiamo fatto 5 punti, sono 3 punti che ci mancano. È normale che quando fai pochi punti così all'inizio, poi se trovi una squadra come la Juventus che sta facendo grandissime cose e che ha gli stessi punti di noi dell'anno scorso, è normale che non ti puoi più permettere di sbagliare. E invece il Milan ha sbagliato, e non poco, almeno in un paio di occasioni, Bologna e Fiorentina. Valeria Bernardi in regia, grazie a Franco Piattanida in redazione, buon primo maggio a chi ci ha seguito.